scorrono su di un'unica base, ma non importa le facce che dimostrano i caratteri e le forme complesse, l'unica cosa che conta è la materia che si dilegua su di un solo sentiero, chiuso ma aperto, ed ora basta, facciamo largo alla libertà, dispersa su di queste strade, disperse nel mondo, e noi ci saremo dentro, fino all'ultimo battito, di un disco in movimento.